ba sta ne bisci va na codere io ta dore fa lo di svanio mola fa o e te boro scapora ne ti ba sta ne bisci va na codere codere ah so se che codere Что тебя нашел, полюбила ты.